Ed è questo il senso della musica elettronica, musica autoprodotta, musica fatta in casa. Questa traccia, direttamente da Trastevere, PV Project. Adard Raptus, in esclusiva autoproduzione romana. Adard Raptus, in esclusiva, autoproduzione da Roma. Raptus. Hard Raptus. Radio Onda Rossa 93.3, 93.4 e 50 e da alcune settimane la nuova frequenza occupata illegalmente 87 e 9 MHz in FM. Hard Raptus Minimal Sound da Roma, autoprodotto, PV Project Trastevere. Adard Raptus in esclusiva, autoproduzione da Roma. Minimal Sound, autoprodotto, ad Hard Raptus. ad Hard Raptus, autoproduzione romana. E ribadiamo l'invito a tutti gli ascoltatori di spedire qui in radio o venire direttamente a portarci il proprio materiale, le proprie tracce. Spazio autoproduzione aperto tutti i sabati e tutte le domeniche qui ad Hard Raptus, sempre in diretta da Radio Onda Rossa. Raptus autoproduce. hard rap tutto.